precisi come un cioccolatino svizzero, siamo qua. Pensate che ci sono delle persone che partecipano a delle iniziative ogni morte di Papa. Io invece partecipo con la blues band a ogni chiusura di Rock FM. Sai che devo dire una cosa, può sembrare brutta. Io un po' me l'aspettavo e sotto sotto dico, perché così almeno se chiude la radio mi presento con la Travis Blues Band. Quindi si chiude in bellezza o si chiude in bruttezza? Secondo me, vabbè, dati presenti in bruttezza. Amiche, amici, allora fatemi fare questo discorso per 20 secondi e poi dopo si inizia. Pronti con gli applausi, Derico. Io non posso ovviamente perdere del tempo, anche se mi piacerebbe molto, però ho un'ora, da 17 anni ho un'ora, anzi mi hanno rubato prima e dopo tanti minuti, però non posso rispondere a ognuno di voi, salutare ognuno di voi, sapete che siete moltissimi, quindi il saluto è veramente collettivo. Io posso solo dire una cosa, vi voglio bene. Spero di avervi fatto apprezzare un po' la musica, spero che voi abbiate conosciuto dalla musica, dalle mie parole, chi è il Puma di Lambrate. E basta, io direi che non ho più voglia di dire nient'altro e vi lascio in compagnia della musica, me ne vado, ciao. Ma posso presentarla? No. Gino. Posso presentare? No, vieni qua. Ciao Fabio, mi chiamo Ariel e volevo avere l'onore di presentare quello che sta per succedere. Vabbè, dai. Posso? Vai, sei tu. Signori e signori, se state lavorando, smettetela di lavorare, perché adesso... Noi smettiamo veramente di lavorare. Se state lavorando, beati voi. Come? Se state lavorando, beati voi. Se la vostra squadra del cuore ha vinto, festeggiate con il blues. Se la vostra squadra del cuore ha perso, consolatevi con il blues. Esatto. Signore e signori, in diretta dagli studi di Rock FM, la Travis Blues Band! Face, slapping my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of them shoes. I don't step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house, take my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you're big enough to do. Honey, lay off of them shoes. Step on my blue suede shoes. You can get a little loving, but lay off of my blue suede shoes. Pick your guitar, son. Can't go. Step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Let's rock now. Two for the show, and a three to get a ready, then you go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can rock and roll, but lay off of my blue suede shoes. Let go now. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, mama. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes, honey. Blue, blue, blue suede shoes. Do anything but lay off of my blue suede shoes. One more time. Hit it, blue. This is the killer speaking Blue Suede Shoes, Jerry Lee Lewis. Allora, io ho detto che non avrei salutato tutti quelli che si meritano un saluto, però non è che posso fare il cafone e non rispondere invece a quelli che hanno mandato gli sms, uno tra tutti, perché è una così, è un sms molto romantico e molto sportivo, e sono due amici di Prato, dei Cigarbal Blues, veramente mi viene a me da piangere. Dice, recita l'sms: vola sul traguardo Puma, sei la nostra maglia rosa. È una cosa che da paura, da brividi. E cosa vi devo dire? Salutiamo. Ehi là là! Salutiamo, incominciano ad arrivare. Comincia ad affollarsi il pubblico all'esterno. Ciao Filippo! Ciao Filippo! Un bacio alla tua figlia, alla bambina. Allora, per ringraziare tutti i nostri tifosi, io devo dire due cose, perché ormai è l'ultima trasmissione, posso dire quello che voglio. Un pensiero, il primo pensiero va alla persona che mi ha sopportato in questi ultimi lunghi 16 anni, no, non è mia moglie, è Max De Rio, io ho trovato in Max De Rio non un amico, qualcosa di più, un fratello minore, un qualcuno che ha condiviso con me la passione per la buona musica, ma soprattutto ha condiviso con me il modo di affrontare anche la mia trasmissione. Parlo al passato, perché era una trasmissione di un'ora, però sono state delle ore molto belle e non sono mai mancato, neanche quando avevo magari un filo di influenza, ma sono un filo, perché come sapete il Puma è il Puma. Andiamo avanti, mi commuovo troppo, facciamo qualcosa per far sentire il mandolino, uno strumento che nel blues è duopo. E vi vogliamo far ascoltare questo brano che si chiama Am I Wrong, dedicato a tutti gli amici di questi lunghi 16 anni, ma anche a quelli che ci hanno scritto dicendo io ero un punk, ero un rocker e adesso apprezzo il buon blues. Vai Puma, ok, questo è Am I Wrong dal vivo per quest'ultima puntata di E allora dietro aiutare. No, io volevo dire Blues Express. Ma c'ho il magone, ma lo dice a me. Ma vedete che sono qua col magone, aiutatemi. Ma ti ricordi? Io se penso alle cose che abbiamo fatto in questo studiolo con personaggi come Joe Bonamassa, come Willie DeVille, Chuck Leveri, ZZ Top, suonare dal vivo qua. E la Poiana di Merone, la Poiana. E Tino Cappelletti dove lo vogliamo mettere. Comunque, visto che è il magone, cosa? Magari se parli nel microfono invece di parlare nel monitor, che è quello lì, non serve, hai capito? Vabbè, dai. Cos'è che fa passare in il magone? Il buon vecchio rocchettone, Tino Cappelletti al basso elettrico, Alex Kildariazzo al mandolino e il Puma di Lambrano all'armonica. Vai, Am I Wrong? Tell me, am I wrong? Falling in love with you. Am I wrong? Falling in love with you. Well, your other man was out there cheating and lying, sipping all over you. Yeah, you better be strong. You know you're depending on me. Yeah, you better be strong. Yeah, you know you're depending on me. Well, your other man was out there. Better be ready, ready for a long, long fight. Sweet thing, Fabio. All right. Am I wrong? Yeah, falling in love with you. Am I wrong? Yeah, falling in love with you. Well, your other man was out there cheating and lying, sipping all over you. Well, your other man was out there. Better be ready, ready for a long, long fight. The man was out there. Better be ready, ready for a long fight. Didn't even know your name. When I first met you, baby, I didn't even know your name. Bad luck and evil women were to blame. I never realized how sweet and kind one woman can be. Sweet and kind a woman can be. Oh, had come to me. Gary Moore, Merry Go Round, da un album Blues for Greenie. Stanno succedendo delle cose bellissime, perché la commozione, la tristezza sta scomparendo e sta subentrando l'allegria. E io saluto l'amico che qui fuori dagli studi di Rock FM ha piazzato uno striscione con su scritto grazie Fabione Rock Family. E Stefano, che saluto, magari vi sta sentendo, gli do un saluto con la mano in diretta. E poi brividi, Brutus, Franz, Laura, che dice grazie per aver fatto apprezzare il blues anche a una metallare ignorante come me. Non sei ignorante, sei semplicemente una di noi. Grazie Laura, ti vogliamo bene. E poi tanti, però quello che noi vogliamo è incominciare a vedere la gente, striscioni anche artigianali fatti su lenzuoli, su improvvisati cartonati recuperati. Il vostro affetto si presenta e si materializza anche in queste belle immagini. E noi però vogliamo dare soprattutto la musica, quella che ha contraddistinto 16 anni di Blues Express a Rock FM. Vi vogliamo far ascoltare questo brano, che è un blues rock dedicato a tutti gli amici, a tutti gli amici della radio. E poi dopo facciamo sentire un brano di Solly Landreth. Nel frattempo io vi voglio ricordare che da qualche giorno è uscito il CD della Travis Blues Band, e io ne approfitto. Ovviamente non posso che non approfittare, perché cosa fai? Un lavoro del genere non si può non approfittare di presentarlo. Potete richiederlo nei negozi, se non c'è lo richiedete. Se vuoi faccio io il lavoro sporco. Esatto, ma molto sporco. Mostramelo un attimo. Eccolo qua, qualcuno dovrà pulirlo. Nei migliori e peggiori negozi di dischi, il nuovo album della Travis Blues Band. Mamma mia, imperdibile. Che voce sexy. Saranno tutte le birre che ti sei sgolato oggi pomeriggio. Un saluto a Lucio di Bresso, il mitico Lucio che per un pomeriggio ha abbandonato le sue pompe ed è venuto qui negli studios. Beh, se lavora nelle pompe idrauliche non è colpa mia, scusami. Fai tu. E poi Monsignor Fefo, mamma mia, e poi l'amico dal Friuli, il Bradipo di Madrano, tanti altri. Dai, suoniamo, perché se no mi viene El Magu. Facciamo One of a Kind, un pezzo di Mike Morgan tratto dal nostro ultimo CD Live 2008, dopo ne sentiremo un assaggio sicuramente dal nuovo CD. Questo invece è rigorosamente live, One of a Kind. One, two, three. can't stop thinking, thinking about you all the time. I'm just so crazy about you, baby, and I just can never, never get enough. Every morning I get up, baby, you're with me all day. You know it breaks my heart just to see you walk away. I'm just so crazy about you, baby, and I just can never, never head enough. Do I love you too much? A lucky, lucky guy, and a baby, you were one of a kind. But I